Io ieri sera stavo a una conferenza, tra l'altro organizzata nell'ambito della Settimana di Cultura Italiana, e un mio vicino di posto mi ha mostrato le immagini di quello che stava succedendo, quindi chiaramente tutti subito siamo rimasti molto, molto stupiti e molto spaventati, cercando di capire quello che stava succedendo. Poi nel corso della serata sono arrivate più informazioni, abbiamo capito un po' quello che era successo e soprattutto abbiamo iniziato a molte persone hanno iniziato a scendere in strada. Ieri sera, tornando a casa a piedi, dovevo attraversare proprio Notre Dame per tornare a casa, tutta la zona era chiusa, delimitata e appunto non era possibile accedere perché c'era la polizia. E c'era moltissima gente per strada, tutti quanti cercavano di avere informazioni, diciamo così, l'incendio che si stava propagando e guardando i soccorsi. E le persone in strada reagivano in modi più diversi, moltissimi riprendevano. Questa mediatizzazione, questa esigenza di costruire degli archivi personali dell'avvenimento, non bastano le immagini che passano sui giornali o sui mezzi di comunicazione, ognuno ha bisogno di costruirsi il proprio archivio, la propria narrazione rispetto all'avvenimento particolare. Quindi tutti erano con i loro telefoni, i loro smartphone a riprendere la cattedrale che bruciava, a riprendere il fumo nero che saliva sui tetti, a riprendere il cielo di Parigi, e questo ci dà il senso di come appunto ci rapportiamo a questi avvenimenti, di come ci sia l'esigenza di quasi testimoniare, di esserci, di essere di fronte al fatto, anche di fronte appunto all'incendio di Notre Dame. C'era anche chi stava pregando, penso che sulle testate principali si siano visti i video delle persone che pregano e cantano su un ponte dalle parti dell'Île Saint-Louis. E stamattina si cerca da un lato di capire quello che è successo, dall'altro di diciamo così uscire da questa situazione e cercare di vedere anche quello che verrà dopo. Macron ha già detto che ci sarà un massimo impegno da parte di tutti per poter ricostruire la cattedrale in tempo, alcuni miliardari hanno già fatto delle donazioni, quindi penso che oggi il dibattito sarà anche su questo e non solo sulle cause dell'incendio e di quello che è successo ieri sera. Sì, infatti con le ore che passano poi si è iniziato a vedere anche qualche polemica, diciamo, sorgere. Una di queste era quella sulle responsabilità, per esempio, condivise o non condivise tra lo Stato e la Chiesa. Sì, allora questa è una polemica che effettivamente è uscita per quanto riguarda le condizioni di sicurezza rispetto a un cantiere, e sembra che effettivamente alcuni giornali lo hanno messo in prima pagina, altri hanno già scritto degli articoli, c'è un articolo del Sole 24 Ore per esempio che ne parla. Sembra effettivamente che da un lato il sistema antincendio, il sistema di sicurezza non fosse a norma o comunque fosse molto antiquato, e ne parla Sole 24 Ore partendo da uno studio italiano che è stato fatto. Dall'altro, anche per quanto riguarda i soccorsi e, diciamo così, l'arrivo dei vigili del fuoco, sembra che ci siano state delle falle nell'organizzazione appunto di queste attività. I vigili del fuoco hanno domato definitivamente l'incendio soltanto all'alba di questa mattina, quindi effettivamente è stato un incendio che si è propagato e ci sono state, diciamo, ci sono volute molte ore per fermarlo. E poi le polemiche non sono state solo rispetto appunto a queste responsabilità fra Stato e Chiesa, ma anche rispetto probabilmente a tutta una narrazione che si sta costruendo fin da subito legata all'unità nazionale, al simbolo della cristianità e dell'Occidente. Quindi la commozione della politica rispetto appunto all'incendio che ha devastato questo simbolo nazionale porta a narrazioni nuove, a una retorica molto forte, alla quale nei prossimi giorni, insomma, che vedremo nei prossimi giorni a più riprese. Ecco, anche questo è un tema che mi incuriosiva molto, perché in realtà anche in Italia si sono viste illazioni, a parte, diciamo, gli estremi dei commenti più sovranisti, per cui che vedevano dietro una matrice terroristica, però in generale, diciamo, la retorica del nazionalismo si è sentita molto, quindi mi chiedevo anche quanto si sia sentita in Francia e se siano emerse anche voci discordanti. Sì, moltissimo. Allora, moltissimo è chiaramente Macron ha fatto un discorso incentrato su questo, sull'esigenza appunto di ricostruire, di far rinascere questo simbolo. Quindi da un lato c'è la dimensione nazionale, la dimensione del monumento simbolo appunto di una nazione particolare, di una cultura particolare, occidentale, cristiana. Certo, in Italia ci sono stati commenti legati al fatto che si tratta di un atto terroristico e di una, diciamo così, di un segnale lanciato alla cristianità da parte di forze che sono contro la cristianità. Questo io penso sia delirante, nemmeno qui in Francia l'estrema destra ha fatto illazioni del genere. Al contrario, quello che è interessante però è come italiani, come persone straniere che vivono qui in Francia, insomma, non vogliamo forse cedere troppo a questa retorica nazionale, nazionale, perché Notre Dame è un simbolo universale che supera i confini, e l'emozione è stata moltissima anche molto fuori dai confini francesi. Tutti quanti hanno voluto evocare i loro ricordi, i loro passaggi da questa città indipendentemente dai confini. Quindi quello che emerge da questo incendio, più che un simbolo che va in fumo, è uscito un articolo molto molto criticabile di Merlo sulla Repubblica proprio su questo. Quello che è interessante è proprio come una parte del patrimonio culturale mondiale sia andata in fumo indipendentemente dalle visioni nazionali o particolari dei confini che ci sono. E invece proprio sul fronte artistico, diciamo, perché immagino sia nato un dibattito anche in questo senso sulla possibilità di un restauro, che è stata citata per esempio da Macron. Io leggevo alcuni esperti di beni culturali, per esempio, che dicevano che un restauro in realtà sarebbe negativo proprio da un punto di vista artistico, che molto spesso si toglie poi, diciamo, la natura di un luogo, nel senso proprio di luogo artistico, in questo caso non simbolico. Mi chiedevo se anche in Francia c'è stato un dibattito in questo senso. Sì, adesso su questo ci sono un po' di, diciamo così, non c'è un vero dibattito, si inizia a parlarne. Sicuramente quello che è stato fatto è raccogliere soldi con una grande mobilitazione, una grande colletta proprio per Notre Dame, e raccogliere soldi quindi probabilmente per ricostruire alcune parti o per fare un restauro parziale. Bisognerà vedere cosa diranno appunto gli architetti, cosa dirà la comunità degli architetti e degli storici dell'arte rispetto a questa cosa, però sicuramente se ne inizierà a parlare. Quello che è emerso sui giornali italiani e sui giornali francesi è piuttosto appunto questa generosità, grande generosità dei miliardari e dei grandi gruppi industriali, che fino alla prima ora di questa mattina hanno dichiarato che avrebbero donato milioni e milioni di euro per la ricostruzione di Notre Dame, chiaramente con un'operazione di seduzione e di, diciamo così, washing, come si direbbe, rispetto a quello che poi effettivamente questi grandi gruppi finanziari e industriali fanno ogni giorno in Francia. Quindi abbiamo già visto come il capitalismo, comunque il grande capitalismo nazionale, utilizzi in questo modo, per visibilità e per avere un ritorno d'immagine, una tragedia, e questo effettivamente è preoccupante ed è anche molto grave, secondo me. Certo, intanto non so se nel frattempo si è ripartita anche la politica francese, cioè qual è la situazione anche in quel senso. Quindi immagino che i giornali in Francia, lo sono in Italia, in questo momento siano occupati esclusivamente o quasi da questa vicenda, però mi chiedevo se ci sono state altre dichiarazioni, o comunque se si è visto anche, so che Macron poco prima dell'incendio, poi quando è scoppiato, avrebbe dovuto tenere un discorso sulle riforme che programmava. Sì. Quindi mi chiedevo anche se tutto questo discorso sia stato posposto o se in realtà poi il discorso politico va avanti nel frattempo. No, il discorso politico non va avanti, va avanti il discorso istituzionale, ma qui siamo in piena campagna per le europee come in Italia, e sia Marine Le Pen che Nathalie Loiseau, che sono le due leader, diciamo, dei partiti che sono considerati come quelli che arriveranno in testa alle europee, hanno sospeso la loro campagna elettorale, e lo stesso hanno fatto poi anche altre forze politiche. Quindi il dibattito politico si è interrotto, c'è una sorta di raccoglimento, comunque di silenzio rispetto alla campagna rumorosa per le europee. Parlano piuttosto i rappresentanti istituzionali. Macron doveva appunto ieri fare questo discorso alla nazione rispetto a quello che intendeva fare sulle riforme, sulla situazione attuale. Non lo farà perché appunto c'è stata la tragedia, però ha continuato a parlare. Fin dalle prime ore di questa mattina lui e i ministri coinvolti si sono già incontrati a più riprese per una riunione operativa. Però sì, il discorso politico, diciamo, è un po' cristallizzato in questo senso. Perfetto, un'ultima domanda, perché sono un po' curiosa di come sia stata percepita in Francia, visto che in Italia notoriamente abbiamo un problema con la comprensione della satira, diciamo. Abbiamo visto anche la vignetta di Charlie Hebdo di questa mattina sul rogo di Notre Dame, in cui, diciamo, si faceva ironia mettendo appunto la caricatura di Macron in questa vignetta. Mi chiedevo come è stata accolta anche in Francia. Ma la vignetta è una vignetta tipica di Charlie Hebdo, non è nulla di nuovo, nulla di tragico. Le vignette simili c'erano state anche in occasione degli attentati, quindi la satira di Charlie Hebdo va anche oltre le tragedie. Non c'è stata un'accoglienza particolarmente critica, solo in Italia forse non siamo abituati a forme di satira appunto così pungenti e così ciniche, che invece in Francia hanno più diffusione, ci sono anche molti giornali satirici oltre a Charlie Hebdo, quindi non è che c'è stata una reazione sorpresa o diciamo così piccata da parte di qualcuno. Sono interessanti anche le due, une del Monde de Libération, Libération apre su un altro dramma questa mattina, appunto con questo noi che indica la prima persona di una comunità che si raccoglie di fronte alla tragedia, e anche Le Monde apre con una formula legata al noi, Notre Dame, Notre Cœur, penso, oppure Notre Dame, Notre Histoire, non mi ricordo, ma quello che è interessante è come i giornali appunto aprano su questo, sottolineando l'aspetto del noi e della collettività che deve fare fronte alla tragedia.